Ben ritrovata Giuliana Musso. Con Grazie mille. te per parlare della tua scesa in campo con la Scania Celestini per Potente e Fragile al Teatro Biblioteca Quarticciolo qui a Roma il 3 e 4 marzo. Ci racconti un po', Giuliana? Allora, partiamo dal titolo che è Potente e Fragile, no, non siamo noi, non è nemmeno il teatro che facciamo. Potente e Fragile è la vita che incontriamo, sia io che Ascanio, fate le dovute proporzioni ovviamente, nei percorsi che ci creiamo, che precedono la scrittura, che precedono le ideazioni, i pensieri e poi i fatti di teatro, no? Sì. Questa vita che incontriamo è un po' il soggetto di quello che vogliamo mettere insieme per queste due occasioni. E quindi si tratterà molto di portare in scena dei brani tratti dalle nostre ricerche, dalle nostre interviste, in accoppiamento con ovviamente dei pezzi poi di drammaturgia. E Sì. quindi è un po' anche una voglia di svelare alle persone quello che di solito non emerge, cioè sono un po' gli archivi, no, dei nostri computer. Infatti in questi giorni stiamo impazzendo perché scopriamo noi stessi cose che ci siamo dimenticati di avere o che non riusciamo a trovare, che sappiamo di avere da qualche parte. È molto divertente ed è un modo bello anche di conoscerci tra di noi, questo. Ecco, proprio a questo proposito, com'è partito tutto? Ma credo che sia partito un po' dal desiderio, un po' penso, di Ascanio, di fare questa cosa insieme. Noi ci conosciamo da tanti anni, ma non abbiamo mai condiviso un palcoscenico e sappiamo di avere delle affinità, infatti lo stiamo scoprendo in questi giorni. Soprattutto tante tematiche sono simili, ma forse la cosa che ci tiene più vicini è questa passione per le storie delle persone, per le voci. Abbiamo fatto una cronostoria dei registratori che abbiamo usato in questi ultimi 20 anni e fa ridere perché abbiamo iniziato quando ancora c'erano i registratori a cassetta. Sì. Senti, questa caratteristica del potente e fragile, com'è venuta fuori? Ma devo dire che è stato solo un modo un po' così, un po' anche frettoloso di cercare una sintesi per dire che a me ultimamente piace molto questa parola, la fragilità, piace molto. Nel nostro percorso teatrale sento che è la parte anche di noi come persone, che come fa da cassarmonica, no? Allora, ci è capitato in questi giorni, mentre io leggevo qualcosa ad Ascanio o Ascanio leggeva qualcosa a me, di commuoverci, no? Solo al sentire queste parole, anche se non sono drammaturgia, sono bobinature, trascrizioni di interviste, cose del genere. Ecco, è proprio in quel momento lì in cui tu risuoni che senti che quella vita che stai raccogliendo in quel momento ti si sta un po', si confessa, si rivela a te e tu hai solo l'opportunità di trasferirla nel teatro. Questo è la grande opportunità che noi abbiamo. Ecco, quindi non è un gran titolo, però era quello che ci veniva in mente in quel momento lì, prima di iniziare tutto il lavoro, no? Cosa stiamo cercando? Ecco, stiamo cercando di infilare la potenza che è nella fragilità del vivente attraverso anche la nostra, sperando che finisca un po' anche nel teatro. Giuliana, come avete pensato, di mettervi in scena? Sarà una sorta di conversazione? Abbiamo provato a pensare a un inizio come una conversazione, Solo che Ascanio ha iniziato a parlare e ha smesso dopo 2 ore. E quindi non so, ci dobbiamo far venire in mente un'altra idea. Senti, oltre questo impegno, su cosa stai lavorando? Quali sono i progetti di questa stagione? Allora, per questa stagione io continuo con il repertorio, Sì. l'ultimo spettacolo è il mio eroe, il penultimo è la Fabbrica dei Preti e poi alcuni degli spettacoli storici. Sto per andare in onda su Rai 5 il mio vecchissimo storico Evergreen è nato in casa, che penso che darà un po', come dire, sarà un po' un momento che segnerà anche la fine del mio andare in scena con questo spettacolo. Dobbiamo mandarlo un po' in pensione, quindi coglieremo anche questa occasione. Invece, per quanto riguarda il lavoro di ricerca, ritengo che sia concluso un po' dopo quasi 8 anni, anzi 8 anni tutti, questa ricerca sulla distruttività umana, sulla violenza di sistema e sul patriarcato. E quindi, concluso questo, mi piacerebbe invece iniziare un percorso di studio sul tema. Io chi sto chiamando appunto quella un po' della rigenerazione, della cura, della guarigione, no? Cioè, come dire, compreso, no, quali sono i meccanismi della violenza, qual è l'origine, qual è lo scopo. Adesso mi piacerebbe nutrire invece, tutto questo, nutrire e essere nutrita dal mondo, dalle storie, dagli aspetti del nostro vivere insieme che invece sono la cura a tutto questo. Bene, Giuliana, è sempre un piacere. Ricordiamo l'appuntamento con Potente e Fragile. Giuliana Musso e Ascanio Celestini insieme sul palcoscenico il 3 e 4 marzo a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Giuliana, a presto, un abbraccio. Grazie Federico e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.